impianti in alluminio. Se tu avessi avuto la Mantova 1 o la Mantova 5 non avrebbe mai fischiato, perché i radiali sono in fibra. Chi fischia sono i radiali in alluminio, perché ne hai tanti e il vento spostandosi fa a mulinello nei radiali stesso e inizia a fischiare. Così era la mia, uguale, preciso, identico. Quando io ero al nono piano e avevo la Mantova turbo allora, ed era proprio lo stesso problema tuo, perché io ce l'avevo in direzione della camera da letto, era una cosa allucinante. Quando ho cambiato l'antenna, che ho tolto la Mantova turbo e ho messo la Mantova 1, non ha più fischiato, perché i radiali sono in fibra, capito? Non fischiano. È tutto lì il problema di quell'antenna, altrimenti è un'antenna eccezionale, a me mi ha dato grandi, grandi soddisfazioni. Rimane il fatto che tu sei contento della Game Master, quello è contento della Mantova Turbo, quello è contento della Sirio, quello che io la Mantova 1, Mantova 1 non la cambio con nessuna antenna al mondo, non ci sono dubbi su questo, non ci sono assolutamente dubbi. A prescindere che tutte le antenne sono buone, io, Claudio, Marti, Sparviero, preferisce la Mantova 1, non la 5, non la Turbo, non la Mantova 1 è la prima antenna che hanno fatto ed è la migliore in assoluto. Vai, vabbè, da questo momento io vi saluto che vado a preparare la cena. Buonanotte a tutti, buonasera a tutti e buon proseguo di serata. Ciao. Ehi, Gatta, buon tutto, anche io tra poco vado via. No, ti ho detto poco fa, non so se hai mai sentito, se alle 10 ci sono domani, se vuoi passare ci facciamo due chiacchierate. Ok, vai dopo Roma e poi Giulio. Ehi, vabbè, vedo un po', cercami quel fregio che mi hanno fottuto dalla macchina. Se riusciamo a procurarlo, perché va veramente molto brutta senza fregio, adesso che poi è tutta ordinata e lucida mi rompe un bel scatto. Allora, in officina non ne ho trovato, guarda troppo, se infatti mi sono tirato di dito, però già lo troviamo, non comprare niente, già lo troviamo, se qualche giro vizioso già lo troviamo. Ti faccio ridere, Roberto, chiamata Biresci, ce l'hai a Biresci in viale Porto Tua, sai quanto vuole? 25 euro più IVA. Ah, degli attenzioni, oh, se vai a comprare l'originale costa un sacco di soldi, ma già le troviamo, dai, lo dico a Pierpaolo, a mio cugino, spargo un po' la voce e lo troviamo, non ti preoccupare, non occuparà nulla. E beh, quelli che avevamo messo erano originali, porca miseria, vabbè, ma l'ho fottuto giù. Ce n'è voluto un fregio dell'Alfa del cofano posteriore per attaccarselo al giubbotto. Guarda, non dico una parolaccia dove se lo dovevano attaccare, mi hanno fatto un danno allucinante, perché staccandolo, siccome c'è il bullone all'interno che lo mantiene, no, il fregio dell'Alfa, mi hanno ammaccato anche il cofano posteriore. Da 6 è che l'abbiamo tutta messa a posto quella macchina, allucinante. Riprendi, dai, vi saluto, buonanotte a tutti. Ehi, ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Vi saluto anche io che stavo a portare giù il cane prima che piova. Ok, ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Anch'io allora chiudo, dai. Ci sentiamo, così vado a cenare, sono già alle 8 meno 3 minuti, per cui si è fatta già l'ora. Ciao Gianni, ciao Roberto, grazie, ciao Claudio, grazie a tutti per il contatto, ci sentiamo prossimamente. Ciao, ciao, ascolto finale, chiudo, vai. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo, buona serata anche a te, buona caccia quando la fai. Ciao Roberto, anche a te ti saluto e ci sentiamo domani. Ciao, ciao, ciao. Già, stai attento, me ne stanno rubando nuovamente i fregi delle macchine, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes. Già lo so, ma le usano quando per dire hanno qualche incidente, qualche cosa che li perdono. Per stare a comprare in zaccata di macchina. Mi hanno fatto un danno allucinante, mi hanno staccato quello di dietro del cofano, siccome c'è il bullone, perché non è incollato, capito, è originale, quindi c'è il bulloncino passante, si stringerà dentro il cofano, bisogna togliere il pannello, anche il cofano mi hanno ammaccato. Da 6 è che l'avevamo dovuta lucidata e fatti tutti i graffi e tutte le cose, ma dimmi tu che spezzi di merda. Dai, ti saluto, ciao Giulio, ciao a tutti, buonanotte, ciao ciao. Ciao ciao, ma sotto casa tua grazie. No, a Ilaria in via Roma, perché lei la lascia praticamente, va al lavoro e la parcheggia lì e poi va a prendere alle 10, alle 11 di notte, 10 e mezza, quando esce, capito? Quando chiude il bar. E quindi l'ha trovata così, non c'era. Perché a perdere è difficile quello che ha bullonato. No, sono tutte e due bullonate, sia l'anteriore che il posteriore, che sono originali, capito? Poi quando magari ti si rompe o cosa, non lo vendono più quello lì originale, sono le ordinare Alfa Romeo, quindi lo vendono di concorrenza, ma è in collaggio, mia sono tutte e due originali, perché uno c'è il cofano, rifatto fare cofano, cappotta, tutti i rettoppi, tutta lucidata eccetera, che attraverso senza fregio di dietro è una porcheria, che brutta, devo, se non me lo trova Roberto devo per forza comprare l'originale, costa quasi 30 euro, vabbè, pazienza. Ciao già, ti saluto, dai, fatti sentire, ciao. Prova la cosmina. Non ne ha, sono andato da Marcello stamattina, sono andato da Tavori e non ne ha, diciamo, non li stacchiamo neanche, noi rottamiamo direttamente tutta la macchina. Allora comincia a staccannire, ha giudito a Simone, a Marcello, al figlio, ho detto Simone comincia a staccarli perché qua ne stanno fregando un bel, dice vabbè allora comincia a staccannire e li metto dentro una cassettina, magari li vendo a 10 euro l'uno. A 10 euro l'uno te ne compro 5, guarda, me li conservo. Ci sentiamo, ciao a tutti, bye bye. Vabbè, là, ci sentiamo, si è staccata la luce per un attimo, là. Vi saluto di nuovo, ciao ciao. Come mai non stai più entrando già a poco? Non c'è mai nessuno, lo sai, non c'è mai nessuno, siete tutti PMR, PMR tu non mi ascolti, l'altro non mi ascolta. Mi piace qua perché mi ascoltano tutti e tu. Già, di là ci vuole poco a farti ascoltare. Un antennino di macchina, come ci hanno tutti. Saliamo su un attimino, una carattina da 10 metri di cavo e si è a posto. Lo usiamo perché oramai ce l'hanno assegnata e lo stiamo usando, capito? Anch'io prima non entravo mai perché diciamo che eravamo un po' pirati, adesso ce l'hanno assegnata e usiamo un po' questa, un po' quella, capito? Vabbè, adesso vediamo. D'accordo, ci sentiamo, dai, però anche la propagazione c'è qua, tutto qua, quindi non c'è propagazione, non c'è nulla, capito? Qua mi diverto in più. Per dire, stasera io ho trovato un punto dove Napoli lo sentivo 9, dalla macchina lì. Ho trovato un punto vicino a casa, lo sentivo 9. Lo so, ma per fare questo locale, per fare due chiacchiere possiamo farle anche lì. Tanto farle qua o farle lì, l'importante è fare radio. Noi ci teniamo in monitor il 23, poi ci spostiamo in PMR, a volte sul 10 c'è Marco con Gianfranco che fanno prove eccetera, e noi ci spostiamo al 23, oramai siamo tutti assieme, diciamo, dai. Quindi non c'è problema, capito? Però se hai anche il PMR, siamo tutti organizzati col PMR anche, però siamo anche sul 23, non è che siamo solo sul 10, perlomeno io sono molto più sul 23 che sul 10 in questo periodo, perché ci abbiamo come monitor questa qui, più il PMR, basta mettere un antennino piccolino, senza fare molte cose, e se in una zona buona qua arrivi, però con l'antenna in gomma già io non ti sento, non ti sento neanche Antonello, capito, non ce la fai a salire come segnale, devi avere l'antenna esterna, comunque quando vuoi ci organizziamo, dai, vai a portare il cane perché ne sta per piovere, ciao. Ciao, ciao, mi sta già chiamando, mi sta già venendo a chiamare, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. C'è qualcuno ancora qua rimasto? Attento, canale 23, c'è qualcuno che chiama? Oh, attenzione canale 23.